一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。今営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。メニューはこれだけ。あとは勝手に注文してくれてや、できるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。客が来るかって？それが結構来るんだよ。 The Sandman, Cacciatori di sogni, di Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. In principio, tutto era scuro. Poi, una prima luce emerse dal buio. Poi una seconda e una terza. Le luci si muovevano nell'oscurità. Erano lucciole, dapprima una manciata. Poi uno sciame e infine centinaia di migliaia di piccoli insetti rischiararono le tenebre con la loro fredda luminescenza. Pareva un fiume, un ponte di piccole stelle, un nastro che si distendeva nell'oscurità, leggero e lucente. Lungo la scia di questo nastro, il monaco intraprese il suo cammino. In mano stringeva un pezzetto di carta che brillava, forse più delle lucciole. Mentre camminava, le lucciole, che avevano illuminato l'oscurità con i loro bagliori intermittenti, cominciarono a svanire, a cadere, a precipitare come tanti boccioli di camelia. E il monaco precipitò con loro. Nel cadere, capì che non stava attraversando lo sciame di lucciole, ma la Via Lattea, il fiume degli dèi che scorre lungo il cielo notturno. Atterrò dolcemente su un nudo basso piano di malachite. Balzò in piedi e iniziò a percorrere quella lucida distesa verde. Nel sogno portava alti zoccoli di legno, di quelli che si indossano nella stagione delle piogge per proteggersi dal fango. Man mano che procedeva nel suo cammino, gli zoccoli si consumavano fino a ridursi in pezzi e presto si ritrovava a camminare a piedi nudi lungo il pianoro, che era duro e affilato come la lama di 100 coltelli. I suoi piedi sanguinanti lasciavano orme rosse sul terreno. Attraversò una distesa di ossa non umane, mostruose, affilate e taglienti. Infine giunse in una palude, calda e umida, che pullulava di pappataci e moscerini così piccoli da essere quasi invisibili. Gli insetti gli si appiccicavano al viso e agli angoli degli occhi, pungendolo e procurandogli gonfiori doloranti. Nugoli di insetti oscuravano il cielo. Il pezzetto di carta brillava intensamente e lui lo tenne alto davanti a sé, procedendo nel suo cammino. Quando ebbe superato la palude, sputò i moscerini che si erano infilati in gola e si pulì da quello che aveva sul viso. Passò poi in un giardino parlante, che da un lato gli consigliava di ritornare indietro e dall'altro lo esortava a cercare il Signore dei Sogni, a restare in quel luogo, a percorrere i suoi sentieri e a sedersi sulla riva dei suoi dolci corsi d'acqua. Ma come mai un giardino gli potesse parlare, il monaco non fu mai in grado di spiegarselo. Si lasciò il giardino alle spalle con un certo rimpianto e proseguì oltre. A un certo punto si ritrovò dinanzi a due case, poste una a fianco all'altra. Nel portico di una casa erano seduti due uomini che pescavano con la lenza nel laghetto sottostante. «Cerco il re di tutti i sogni della notte», gridò il monaco. «Sto andando nella direzione giusta?» «E come potresti sbagliarti se ogni via gli appartiene?» domandò il primo uomo. Il secondo, un individuo grasso e dall'aria sconsolata, non disse niente. Il monaco mostrò il suo lasciapassare. Fu allora che, fugato ogni dubbio, ebbe la certezza di trovarsi in un sogno. Ora infatti riusciva a decifrare i caratteri sul foglio che aveva con sé. Quelle lettere gli apparivano così chiare e semplici che si chiese come mai non le avesse intese prima. Descrivevano colui che dal caos e dal nulla aveva prodotto e plasmato ogni cosa, che dall'infinito senza forma e sostanza aveva generato ciò che non era reale, ma senza cui il reale non ha valore e senso. Il secondo pescatore starnutì per attirare l'attenzione del monaco e con fare casuale gli indicò con un cenno del capo una collina. Il monaco lo ringraziò con un inchino e vi si diresse. Voltandosi indietro, una volta giunto ai piedi della collina, vide il corpo dell'uomo più robusto galleggiare nel laghetto e il suo assassino che lo osservava dalla terrazza della casa. Quando si trovò a metà strada della cima della collina, si voltò nuovamente e vide che la casa era svanita insieme ai due uomini e al lago e al loro posto dove v'era soltanto un cimitero. Davanti a lui si ergeva un edificio costruito in perfetta armonia con quanto lo circondava. Era un tempio, e anche un castello e una casa. Era un luogo di verdi parchi e cascate, di pavimenti dipinti ed eleganti tetti incurvati. Non si poteva dire se fossero una o 100 abitazioni. Vi erano giardini, orti e piante. E gli alberi in quel luogo, inusitato, erano ricoperti allo stesso tempo di fiori primaverili, di frutti estivi e foglie autunnali. Sui rami cinguettavano uccelli, dai piumaggi colorati. Erano di un rosso e di un blu così vivido e brillante che sembravano petali di fiori svolazzanti, e i loro gorgheggi erano alquanto bizzarri. Il monaco non aveva mai visto un luogo simile. Vi era anche un cancello di legno dorato su cui erano state intagliate le effigie di strani animali. Il monaco vi si avvicinò e suonò un piccolo gong. Dal gong non uscì alcun suono, ma il monaco era certo che coloro che lo stavano aspettando erano stati informati della sua presenza. Il cancello si mosse lievemente, poi mutò d'aspetto, e di fronte al monaco comparve una creatura coperta di piume variopinte, un uccello mostruoso, con la testa di un leone dai denti aguzzi, la coda di un serpente e immense ali. Era un Itsumade, una creatura leggendaria. «Chi sei? Cosa vuoi? E perché desideri importunare il mio padrone?» chiese l'Itsumade. «Questo è un luogo incantevole», disse il monaco, «e i miei occhi lo è ancor di più sapendo che al mio risveglio non troverò nulla che regga il suo confronto, poiché niente è come questo palazzo. Sono dunque giunto nei giardini del castello del re dei sogni?» I suoi modi erano gentili, ma le sue parole tradivano una sottile nota di rimprovero per il custode del cancello, poiché persino una creatura della fantasia dovrebbe conservare le buone maniere. «Sì, questo è il palazzo del sogno», ringhiò l'Itsumade. «Dimmi, cosa vuoi, o ti divoro?» Il monaco allungò la mano, in cui teneva il pezzo di carta per mostrarlo alla creatura. Il foglietto brillava di luce propria. Alla sua vista, l'Itsumade chinò il capo e grugnì. «Non sapevo, pensavo che fossi un semplice sognatore». In quel momento, il giovane si rese conto che qualcuno lo stava osservando dalla cima di un pino in ombra. Era un enorme corvo nero, che, non appena si accorse di essere osservato a sua volta, con un battito d'ali d'ampio e possente, spiccò il volo e atterrò sul sentiero a pochi passi dal monaco. «Seguimi», disse il corvo con una voce stridula che produceva lo stesso rumore di due sassi strofinati l'uno con l'altro. «Mi condurrai dal signore dei sogni?» domandò il monaco. «Tu non cercheresti risposte da una poesia o da una foglia morta o dalla bruma in cima a una montagna. E allora perché le vuoi da me?» Il palazzo era un labirinto. Il monaco seguì il volo del corvo attraverso i corridoi lunghi e tortuosi, padiglioni strani e austeri, passaggi fatti di paraventi. I due passarono accanto a laghetti tranquilli e a rocce armoniose, mentre il giovane continuava a seguire il volo della sua guida. «Dalla tua risposta intuisco che sei un poeta», disse il monaco. «Sono al servizio del re di tutti i sogni della notte. Obbedisco ai suoi ordini», rispose il corvo. Poi diede un battito d'ali e svolazzò più in alto verso un paravento che raffigurava un paesaggio, per ritrovarsi infine all'altezza dello sguardo del monaco. Ma hai ragione, una volta ero un poeta. E, come tutti i poeti, passavo troppo tempo nel regno dei sogni. Il corvo accompagnò il giovane in una sala decorata con pennelli dipinti. Un'estremità della stanza si trovava in una pedana sulla quale spiccava un trono ornato di intagli di madreperla. Quello scranno era un perfetto connubio di semplicità e artificio, e il monaco non ebbe alcun dubbio, doveva essere il trono dei sogni. «Aspetta qui», disse il corvo, e poi se ne andò via, impettito come un vecchio e orgoglioso cortigiano. Il monaco rimase là fermo in angoscia, in attesa del signore dei sogni. Nelle sue fantasie il signore dei sogni appariva come un vecchio canuto, con una lunga barba e unghie affilate. Poi aveva l'aspetto del Buddha Amida e infine era un demone metà uomo e metà drago. Il suo sguardo fu catturato dai pannelli dipinti che delimitavano la stanza. Mentre li osservava, questi rimanevano immobili. Ma se distoglieva lo sguardo per un solo istante, vi scopriva cose che prima non aveva visto. Le creature che vi erano dipinte si erano spostate e nuove storie erano cominciate mentre altre si erano concluse. Era là, solo, nella sala del trono, con gli occhi fissi sui pannelli, e un minuto dopo non lo era più. Sulla pedana, seduto sul trono, c'era il re dei sogni. Il monaco fece un profondo inchino. Il re dei sogni aveva una pelle chiara, come la luna d'inverno, e i capelli neri come l'ala di un corvo. I suoi occhi erano due voragini della notte, nelle quali brillavano e ardevano stelle distanti. La sua veste era del colore della notte, e le fiamme e i volti che erano apparsi lungo il bordo inferiore erano svaniti. Cominciò a parlare in tono sommesso, ma al contempo forte come la seta. «Sei il benvenuto in questo luogo», disse. Il monaco ebbe la sensazione che le parole gli riecheggessero dentro la testa. «Ma non dovresti essere qui». «Sono venuto a implorarvi», disse il monaco, «perché salviate la vita di una volpe, che nel mondo da cui provengo si è persa nei sogni. Senza il vostro aiuto ella perirà». «Forse è proprio questo che lei vuole», disse il re di tutti i sogni della notte. «Restare smarrita nei sogni. Di sicuro avrà avuto una ragione per ciò che ha fatto, ed è una ragione di cui tu sai ben poco. Per giunta è una volpe, perché ti importa il suo destino?» Il monaco esitò. Il Buddha ci ha insegnato a provare amore e rispetto per tutte le creature viventi, e quella volpe non mi aveva fatto alcun male. Il re dei sogni sollevò lo sguardo verso il monaco, poi tornò ad abbassare gli occhi. «Non c'è altro?» domandò con aria indifferente. «È per questo motivo che hai lasciato il tuo tempio e sei venuto da me? Perché ami e rispetti tutte le creature viventi?» «Ho dei doveri nei confronti di tutte le cose», disse il monaco, «dal momento che la mia scelta mi ha fatto recidere ogni legame con il desiderio, con i beni mondani». Il re dei sogni non replicò, stava aspettando che il monaco finisse il suo discorso. Il monaco abbassò la testa, ma ricordò la morbidezza della sua pelle, quando aveva finto di essere una donna, ed è un ricordo che porterò con me nella tomba, e anche oltre. Certi legami affettivi sono assai difficili da recidere. «Capisco», disse il re dei sogni. Si alzò in piedi e scese dalla pedana. Era un uomo molto alto, ammesso che fosse un uomo. «Seguimi», disse. Attraversarono una cascata che sorgeva nelle mura del palazzo. L'acqua scivolava su di loro senza bagnarli. Oltre alla cascata si trovava una piccola casa di campagna ed era là che il signore dei sogni condusse il monaco. «Anche la tua volpe è venuta a chiedere che lo facessi un dono», disse il signore dei sogni, «sebbene riguardo ai suoi sentimenti sia stata più sincera di te. Le ho concesso di vedere i tuoi sogni, e così ha sognato insieme a te i primi due sogni, mentre l'ultimo l'ha sognato al posto tuo e ha ricevuto la chiave per aprire lo scrigno». «Dov'è ora?» domandò il monaco. «Come posso riportarla indietro?» «E perché dovresti riportarla indietro?» domandò il signore dei sogni. «Non è quello che desidera e ciò non ti recherebbe alcuna gioia». Il monaco rimase in silenzio. Il re dei sogni fece un cenno verso un tavolo, sul quale era appoggiato uno scrigno di lacca con la chiave nella toppa. Il monaco riconobbe subito l'oggetto. «Lei è chiusa là dentro, puoi seguirla se è ciò che desideri». Il monaco Si chinò verso lo scrigno e ne sollevò lentamente il coperchio. Lo scrigno si aprì, piano piano, fino a quando lo spazio al suo interno ingoiò tutto ciò che lo circondava e senza alcuna esitazione il monaco vi entrò. Capitolo 6. All'inizio al monaco sembrò che l'interno dello scrigno di lacca fosse un posto familiare che aveva in qualche modo dimenticato. Forse la sua stanza da bambino o una camera segreta del tempio che era sempre rimasta nascosta. Nella stanza non c'era altro all'infuori di uno specchio in un angolo. Lo specchio emanava un bagliore delicato come la luce del sole al calar del giorno. Il monaco prese lo specchio. Sul retro c'era un dipinto che raffigurava due uomini. Uno era fiero e spavaldo, con la barba grigia e gli occhi colmi di terrore, mentre l'altro era chiaramente il monaco stesso, sebbene le sue effigie fosse ricoperta di muffa e macchie. Rigirò lo specchio e si ritrovò a fissare il viso della volpe. Vide una fanciulla con gli occhi verdi che parevano dipinti con la luce. Quando si accorse che la guardava, rimase di stucco. «Perché siete venuto qua?» sussurrò Mesta. «Ho dato la mia vita per voi». «Dormivi sulla mia soglia», le disse. «Non sono riuscito a svegliarti». Lei scosse la testa. «Andavo a caccia di Baku», rispose lei. «Sono stata nel posto in cui vanno i Baku, ed ero con loro mentre mangiavano i sogni. È così che sono entrata nei vostri sogni, mentre voi li sognavate. Ero lì con voi quando vostro padre vi diede lo scrigno, e mentre vi svegliavate ho preso lo scrigno, ed ero lì quando vostro nonno vi diede la chiave, e mentre vi svegliavate ho preso la chiave. Il giorno dopo vi ho seguito e la notte mi sono sdraiata davanti alla vostra porta, laddove sarebbe passato il sogno per venire da voi, e mi sono addormentata. Ho visto il sogno che scivolava attraverso le tenebre e gli sono balzata addosso e l'ho catturato. Nel mio sogno ho usato la chiave e lo scrigno si è aperto. Era grande quanto il cielo e non ho potuto far altro che entrarvi. Avevo una gran paura perché dentro lo scrigno m'ero smarrita e non riuscivo più a tornare fuori. Avevo perso la strada che mi avrebbe ricondotto al mio corpo. Ero triste e impaurita, ma anche fiera perché sapevo di avervi salvato la vita. «Perché lo hai fatto?» chiese il monaco, anche se pensava di conoscere già la ragione di quel gesto. La ragazza volpe sorrise. «Perché mi avete stanata?» gli domandò. «Perché siete venuto fin qui?» «Perché tengo a te», disse lui. La fanciulla abbassò lo sguardo. «Dunque ora siete qui e avete saputo la verità. Dovete sapere che per voi è ora di andare. Vi ho salvato la vita. L'Omnignoji, vostro nemico, morirà al vostro posto e voi potrete tornare al tempio, coltivare le vostre zucche e le vostre stupide patate dolci e quando lo riterrete opportuno potrete recitare una preghiera per me». «Sono venuto a liberarti», disse il monaco. «È il mio compito». «E come vorresti liberarmi?» chiese la fanciulla in tono triste. «Siete capace di infrangere lo specchio?» «No», ammise il monaco, «non so farlo». E pronunciò il nome che era stato scritto sul biglietto ricevuto da Binzuru Arada sul ponte. In piedi al suo fianco c'era il re dei sogni. «Bene», disse il re, «sei pronto a lasciare questo posto?» «Mio signore», replicò lui, «io sono un monaco, non possiedo altro che la mia ciotola votiva, ma il sogno sognato dalla volpe apparteneva a me di diritto. Chiedo che mi sia restituito». «Ma se ti restituisco il sogno», replicò il re dei sogni, «dovrei morire al suo posto». «Lo comprendo», disse il monaco, «tuttavia il sogno è mio e non permetterò che questa volpe muoia in mia vece». Il re dei sogni annuì. Il suo volto non cambiò espressione, eppure il monaco parve di percepire in lui un'ombra di tristezza, ma al tempo stesso era contento della richiesta ricevuta. Il giovane monaco sapeva che stava agendo per il meglio. Il re fece un cenno e lo specchio restò immobile in terra, vuoto, mentre lo spirito della volpe si ritrovò accanto al monaco al buio. «Hai fatto la cosa giusta pagando di persona», disse il re dei sogni al monaco, «e io voglio fare qualcosa per te. Ti concedo un po' di tempo per dire addio alla tua volpe». Lo spirito della volpe si prostrò ai piedi del re dei sogni. «Ma avevate giurato di aiutarmi», disse in tono adirato. «E così è stato». «Non è giusto», disse la volpe. «No», convenne il re dei sogni, «non lo è». Con calma, muovendosi in modo impercettibile, li lasciò da soli. È tutto ciò che la storia ci rivela di quel momento, ovvero che li lasciò da soli, perché potessero dirsi addio. Forse si scambiarono un saluto formale e impacciato, poiché il divario che li separava era incolmabile. Lui era un uomo che aveva abbandonato il mondo e lei era lo spirito di una volpe. È certamente possibile che sia andata così. Ma poi ci torna in mente tutto quello che avevano fatto l'uno per l'altra, e quindi potremmo anche ipotizzare che abbiano fatto l'amore o che abbiano sognato di farlo. Forse. Quando ebbero terminato di dirsi addio, il re dei sogni tornò da loro. «Ora tutto andrà nel modo in cui è giusto che vada», disse, e il monaco si ritrovò a guardare la volpe che era uscita dallo specchio. «Avrei dato la mia vita per voi», sussurrò lei in tono triste. «Devi vivere», disse il monaco. «Sarete vendicato», replicò la volpe. «L'Onmyoji, che vi ha fatto questo, capirà cosa vuol dire portare via qualcosa a una volpe». Il monaco guardò la fanciulla volpe dallo specchio. «Non inseguire la vendetta, cerca il Buddha», le disse. Poi si voltò ed entrò nel cuore dello specchio e sparì. La volpe restò acquattata tra le rocce, accanto all'enorme volpone nero dei sogni. «Tutto quel che ho fatto», disse, «tutti i miei tentativi, a nulla sono valsi». «Niente viene mai fatto per niente», disse il volpone dei sogni. «Niente va sprecato. Tu sei cresciuta e hai preso delle decisioni e non sei più la stessa volpe che eri ieri. Prendi con te ciò che hai imparato e prosegui per la tua strada». «Dov'è lui adesso?» chiese. «Il suo corpo è disteso sul suo giaciglio al tempio. Il suo spirito andrà dove è stabilito che vada». «Dunque morirà», disse. «Sì», replicò il volpone. «Mi ha detto di non inseguire la vendetta, ma cercare il Buddha», disse tristemente lo spirito della volpe. «Saggio consiglio», disse il volpone dei sogni. «La vendetta è una strada senza fine. Sarebbe sensato da parte tua evitarla». «E dunque?» «Cercherò il Buddha», disse la volpe sollevando la riscatola testa, «ma prima voglio la vendetta». «Come preferisci», disse il volpone dei sogni, senza lasciar trapelare i suoi sentimenti. Non era chiaro se fosse felice o triste, soddisfatto o insoddisfatto. E, con uno svolazzo di coda, si inoltrò nel territorio dei sogni, lasciando la piccola volpe più sola di quanto non lo fosse mai stata. La volpe si risvegliò nel piccolo tempio sul pendio della montagna, accanto al monaco. I suoi occhi erano chiusi, il respiro flebile, la pelle era del colore della spuma del mare. Dopo avergli già detto addio, era doloroso stargli accanto. Ma la volpe restò con lui e si prese cura del suo corpo. Morì in pace il giorno seguente. Fu officiato un semplice funerale per lui e le sue spoglie furono seppellite lungo il fianco della montagna accanto a quelle degli altri monaci che avevano servito il piccolo tempio nei secoli precedenti. La luna si fece piena nel cielo e poi divenne una falce sottile e il maestro di Yin Yang era ancora vivo. Per di più, egli sentiva la sua paura stemperarsi sempre più nel suo cuore. Prese lo scrigno di lacca, la chiave nera e i piattini di porcellana e li avvolse nei fazzoletti di seta, che ora mostrava solo il suo viso, poiché dall'altro lato vi era rimasta solo l'ombra di una macchia. Poi, a notte fonda, andò a seppellire ogni cosa sotto le radici di un albero che molto tempo prima era stato colpito da un fulmine ed era avviluppato a contorto in una forma assai disturbante. Provava sollievo per il fatto di essere vivo, era più felice di quanto non lo fosse mai stato. Quelli, per l'Onmyoji, erano giorni lieti. La luna s'era fatta di nuovo piena nel cielo quando si presentò a fargli visita una fanciulla di nobili natali che desiderava consultarlo sulla sua sorte. Quel giorno una fitta nebbia era sospesa a mezz'aria e avvolgeva tra le sue spire la dimora dell'Onmyoji. Ripagò le sue parole di saggezza con monete d'oro, talmente antiche da aver quasi perso qualunque sbalzo, e con riso di qualità eccellente. Poi la giovane lasciò quella dimora in una magnifica carrozza trainata da volpi. Il maestro di Yin Yang disse a un servo di seguirla a cavallo e di scoprire chi fosse quella fanciulla e dove vivesse. Parecchie ore più tardi il servo tornò indietro. Disse che la fanciulla viveva in una dimora vetusta ma imponente, a parecchi ri a nord di Kyoto, e descrisse la zona all'Onmyoji. Passarono i giorni. L'Onmyoji non riusciva a togliersi dalla mente il volto di quella fanciulla, né il suo incedere rispettoso e seducente al tempo stesso. Immaginava di nominarla, di toccarla, di possederla. Quando chiudeva gli occhi, la notte la fanciulla era lì, con i suoi capelli lunghissimi e nerissimi, i suoi occhi d'un tono di verde che ricordava quello delle foglioline che sbocciano a primavera, i suoi piedi che si muovevano come due graziosi topini, la delicatezza della sua mano che si stringeva il ventaglio, la sua voce dolce come una canzone ascoltata in sogno. Quando andava dalla sua concubina per fare l'amore con lei, non provava alcun interesse e così se ne tornava nella sua camera. Scrisse una poesia paragonando i suoi sentimenti per la fanciulla al vento d'autunno che si increspa tutto attorno le superfici di una placido stagno. Affidò il componimento a un servo e lo fece recapitare alla fanciulla. Il servo tornò con la replica, una poesia che parlava dei riflessi della luna sullo stagno increspato dal vento. Il cuore gli tuonò nel petto quando lesse quelle parole, sopraffatto dalla grazia e dalla leggiadria dei suoi tocchi di pennello. Interrogò gli oracoli chiedendo della fanciulla. La donna più anziana rise di lui, fin quasi a soffocarsi dai singulti, ma non disse nulla. La più giovane disse: «L'uomo che amava è morto». «Bene», rispose l'ombre Yonji, «e qual è il giorno più propizio per farle visita?» Ma a quella domanda tutte e tre le donne risero, come se volessero farsi beffe di lui, e lui, indignato, lasciò la loro stamberga. Una sera si presentò a casa della fanciulla. Le chiese perdono per quella sua visita non annunciata, dicendo che era stato costretto dal responso dei suoi oracoli a lasciare la propria dimora e a dirigersi verso nord, e che necessitava di trascorrere una notte al riparo prima di proseguire l'indomani mattina per la città. Lei lo invitò a cena. La casa era magnifica. Lui e la fanciulla cenarono da soli, e per tutta la serata gli furono serviti i cibi più gustosi che avesse mai assaggiato. «Non ho mai provato un cibo così saporito», disse, intingendo bocconi di carne esotica in una salsa fredda. «E pensare», rispose lei, «che se non fosse stato qui la mia dimora, sareste stato costretto ad accamparvi tra le rovine di una vecchia casa diroccata e nutrirvi di topi e se...» La notte successiva ci furono due incendi nella città di Kyoto. La prima casa a bruciare fu quella dell'Omniyoji, la 17ª più pregevole di tutta la città. Non fu sospettato di alcun coinvolgimento, dato che quel mattino era partito presto con un carro carico di tutte le sue pergamene e degli strumenti magici. Fu un tragico incendio, poiché sua moglie, la sua concubina e tutti i servi stavano dormendo quando divampò, e pertanto persero la vita. L'altra casa a bruciare fu una capanna al limite della città, in una zona di dubbia reputazione. Era una casa in cui vivevano tre donne che passavano per essere indovine ed erboriste. Nessuno sa se fossero in casa quando scoppiò l'incendio, poiché gli unici resti rinvenuti furono ossa e teschi di infanti e bambini. Era già calata la sera quando il maestro di Yin Yang arrivò alla dimora della fanciulla che aveva conquistato il suo cuore. «La mia casa è andata a fuoco», le disse, «e le mie donne sono morte. Non ho nessuno da amare e nessun luogo in cui tornare». Lei sorrise. Sembrava talmente felice che l'Omniyomji ebbe la sensazione che fosse spuntato il sole e che esso splendesse sotto di lui. «E in questo carro», aggiunse, «c'è tutto il mio sapere, la mia pergamene, i miei strumenti di magia, tutti gli amuleti, le bacchette e le formule che vi conferiscono poteri sugli spiriti e sui demoni e che vi consentono di predire il futuro. Ho portato tutto qui e depongo ogni cosa ai tuoi piedi». La fanciulla annuì, e molti dei suoi servi presero il carro e ne scaricarono il contenuto. «Ecco», disse Lord Yonji, «ora sono tuo, e non c'è nulla che possa frapporsi tra noi». «C'è ancora qualcosa tra di noi», gli disse lei, «la vostra veste. Toglietela, fatemi vedere come siete fatto». La follia e la lussuria si rimescolarono nelle vene dell'Omniyoji. Si sfilò la veste e rimase lì, fermo, nudo, alla luce offuscata del tramonto. Lei raccolse la veste e la tenne in mano. Lui aprì le braccia per stringere a sé la fanciulla. Lei gli si avvicinò. «Ora», sussurrò, «non avete casa, né moglie, né concubina. Non avete né magia né vestiti. Avete perso tutto, e dunque è ora che io vi dia qualcosa». Gli prese il volto tra le mani e lo avvicinò a sé, come se stesse per baciarlo tra gli occhi e la fronte. «Ma conserverete la vostra vita», disse, «perché lui non avrebbe voluto che vi uccidessi. I denti di una volpe sono molto aguzzi». E con un guizzo della coda sparì. Il maestro di Yin Yang fu trovato il mattino dopo a terra, in una casa che era stata abbandonata 20 anni prima, quando l'ufficiale che lo possedeva era caduto in disgrazia. Alcuni dicono che fosse stato il senso di colpa a condurlo laggiù, poiché 15 anni prima Lon Myeonji era stato a servizio del signore che aveva causato la rovina di quella famiglia. Era nudo, pieno di vergogna e completamente fuori di segno. Alcuni dicono sia stata la perdita della moglie e della casa nell'incendio a condurlo alla follia. Altri dicono che sia stato per via della perdita del suo occhio, mentre i più superstiziosi parlano tra loro, dicono sia stata la magia di una volpe. I suoi vecchi compagni lo evitavano, nei tempi che seguirono, quando lo incontravano per la strada mentre chiedeva l'elemosina, coperto solo di stracci, con un cencio in testa a coprire il suo volto deturpato. Visse in miseria, nello squallore e nella follia fino alla morte, senza mai più ritrovare la felicità, se non qualche volta in sogno. Ma del modo in cui visse e di come morì, tutte le storie non dicono niente. «Ma cosa ne è venuto di buono?» domandò il corvo. «Di buono?» chiese il re di tutti i sogni della notte. «Già», replicò il corvo. «Il monaco doveva morire, ed è morto. La volpe che ha tentato di aiutarlo ha fallito. Lon Myeonji ha perso ogni cosa. Cosa ne è venuto di buono?» a esaudire il desiderio della volpe. Il re dei sogni guardò in lontananza, verso l'orizzonte. Una stella guizzò nei suoi occhi, ma poi sparì. «Sono state impartite delle lezioni», disse il pallido sovrano. «Gli eventi hanno seguito il loro corso nel modo più appropriato. Non credo che il mio tempo sia andato sprecato». «Sono state impartite delle lezioni?» chiese il corvo, lisciandosi le penne del collo e sollevando in alto il suo capiro nero. «A chi?» «A tutti loro, soprattutto al monaco». Il corvo gracchiò, emettendo un suono profondo e gutturale, e saltellò da una zampa all'altra, sembrava stesse cercando le parole più adatte. Il re dei sogni lo guardò pazientemente con i suoi occhi di tenebra. «Ma lui è morto», disse il corvo dopo alcuni istanti. «Se è per questo anche tu sei morto, mio caro corvo. Questa storia ha insegnato qualcosa anche a te. Ma anche tu hai imparato una lezione?» domandò ancora il corvo, che un tempo era stato un poeta. Ma il pallido re scelse di non rispondere e restò avvolto nel suo silenzio a fissare l'orizzonte. Dopo qualche tempo, il corvo batté le sue ali poderose e volò via nel cielo dei sogni, lasciando il re completamente solo. E questa è la storia della volpe e del monaco, o almeno gran parte di essa. Si dice infatti che chi sogna regioni remote, come quella in cui pascolano i Baku, abbia visto certe volte due figure che camminavano in lontananza, e che queste due figure fossero un monaco e una volpe, o forse un uomo e una donna. Altri sostengono che ciò non sia possibile e che nei sogni, come nella morte, un monaco e una volpe abitano mondi diversi, proprio come da vivi, e che i mondi diversi dovranno sempre restare. Ma i sogni sono ben strana cosa, e nessuno di noi, all'infuori del re di tutti i sogni della notte, può dire se siamo reali o meno, né se siamo in grado di dirci qualcosa dei tempi di là da venire. Grazie. 寂しい時は僕